La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. Con l'articolo 138 ci avviciniamo alla fine degli articoli della Costituzione. L'articolo 138 è stato negli ultimi mesi uno degli articoli più noto ai cittadini, perché l'articolo 138 riguarda il procedimento di revisione costituzionale. La domanda di base è una: ma la Costituzione può essere modificata? In teoria alcuni ritengono che le Costituzioni non debbano mai essere modificate, perché le Costituzioni stabiliscono dei principi fondamentali che devono restare sempre quelli. Invece, la tesi più realista ammette che le Costituzioni non possono non essere modificate, perché altrimenti vanno a pietrificare dei concetti e si allontanano sempre di più dal reale vivere della società. Ecco allora che è molto più logico prevedere che le Costituzioni possano, anzi debbano, essere modificate, ma va ricordato che la Costituzione è una cosa seria e quindi non può essere modificata troppo spesso e soprattutto non può essere modificata dalla maggioranza politica del momento, perché la Costituzione è di tutti. In Assemblea Costituente questo testo, fu approvato dai cattolici, dai socialisti, dai comunisti, dai liberali, quindi da tutte le forze presenti che si misero d'accordo su un testo di compromesso, cioè su un testo che andasse bene a tutti. La Costituzione non può essere di uno solo. Questo ci fa capire che il procedimento per modificare la Costituzione è un procedimento che richiede innanzitutto delle maggioranze speciali, cioè non basta la maggioranza politica di governo. L'articolo 138 prevede che la riforma costituzionale debba avvenire quindi con un meccanismo particolare. Non basta la legge ordinaria, non basta la legge parlamentare. Ad essere competente è sempre il Parlamento, però il Parlamento deve approvare la legge 4 volte e non 2, quindi 2 volte alla Camera e 2 volte al Senato, con un intervallo di non meno di 3 mesi. Perché? Per pensarci bene, in maniera da valutare bene le conseguenze di quella riforma. Poi, nell'ultima approvazione, quindi nella terza e quarta approvazione, va valutata attentamente la maggioranza raggiunta. Perché se si raggiunge una maggioranza molto alta, i 2/3 dei componenti, quindi praticamente gran parte dello schieramento politico, quel testo diventa direttamente legge costituzionale, cioè modifica direttamente la Costituzione. Se invece si raggiunge solo la maggioranza assoluta, c'è la possibilità di richiedere un referendum. Infatti, dopo l'approvazione parlamentare, ci sono 3 mesi affinché minoranze parlamentari, cittadini o consigli regionali chiedano il referendum. A quel punto voterà l'intero popolo per dire sì o no alla riforma. Ma queste sono cose note a tutti noi, perché nel dicembre 2016 siamo stati chiamati per la terza volta nella storia a votare sulla modifica costituzionale. Infatti, va ricordato che fino ad ora la Costituzione italiana è stata modificata poco, perché abbiamo avuto in 70 anni di storia meno di 20 revisioni costituzionali, tutte in genere molto puntuali, molto minute. Le tre revisioni più ampie sono state invece quella del 2001, che riguarda tutto l'assetto di Stato e Regioni, il titolo V, che fu approvata da un referendum popolare. E poi ci sono stati i due tentativi del 2006 e del 2016 di fare una modifica molto più ampia della parte seconda, quindi dell'organizzazione dello Stato. In entrambi i casi queste modifiche furono approvate soltanto con la maggioranza assoluta. Perché? Perché il Parlamento si era spaccato. Nel 2006 era una riforma di centrodestra, nel 2016 è stata una riforma di centrosinistra. Quindi si è andati al referendum popolare e in entrambi i casi ha prevalso il no, cioè il popolo ha votato contro la riforma costituzionale. L'articolo 138 è un meccanismo che garantisce a dovere la Costituzione, perché ci fa capire che le riforme costituzionali vadano soppesate e pensate bene. In fondo, la Costituzione è una cosa seria ed è una cosa di tutti.